Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, oggi vi presento un grande artista rinascimentale a tutti ben noto, benvenuto Cellini, e l'occasione mi è data dalla pubblicazione di un libro che presenta la vita romanzata con molto brio da Marco Messeri, che è attore, regista, sceneggiatore e musicista. Lo abbiamo intercettato per qualche domanda sul set di una serie televisiva che sta girando, che Dio ci aiuti, con la regia di Francesco Vicario. Il libro di Messeri si intitola Vita allegra di un genio sventurato, è pubblicato da Schirà, 172 pagine, 16 euro. Cellini lo incontriamo nel libro a 60 anni, reduce da una miracolosa guarigione, da un avvelenamento misterioso di cui conosceremo poi le ragioni. Ha un ragazzo accanto che lo assiste, al quale racconta la sua vita avventurosa, punteggiata non soltanto da straordinari capolavori, ma anche da risse di verbi, scontri e anche un omicidio. Ma su questa vita così avventurosa, e sentiamo perché sventurata, sentiamo l'autore. Buongiorno a Marco Messeri. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, benvenuto Cellini, un genio sventurato. In fondo non fu l'unico genio sventurato. Che cosa l'ha attratto particolarmente di Cellini? Ma un po' il titolo lo suggerisce, perché è vita allegra di un genio sventurato. E questo l'ho un po' capito leggendo la sua strepitosa autobiografia. E lui sempre in ogni pagina cerca di mettere la parola ridere. Vanno a Roma a piedi da ragazzi, scappano di casa, gli fanno male i piedi, ma ridono. Tutte le sue disavventure vengono colorite un po' dall'aspetto grottesco, insomma, dalla voglia di ridere di questa vita, ecco. Il suo libro comincia con la descrizione di un rapporto piuttosto complesso con il padre. Sì, perché questo capita a tutti. Cioè, voglio dire, questa vita di un genio sventurato è un po' anche il ritratto di ognuno di noi, che dal di dentro ci vediamo con un valore 100 e l'esterno invece ci valuta 10, quindi mi metto io, ma anche dovrebbe raccontare qualcosa a tutti i lettori sotto l'ombrellone in una piacevole vacanza. E questo padre, che pur è un talento, perché è un talento musicale fortissimo, un grande costruttore di strumenti, però che adora questo figlio, ma gli vuole un bene che è un po' distorto dalla passione della musica, ecco. E quindi fa ridere il rapporto tra un padre che lo vuole musicista e lui che si vuole invece orafo, scultore. I lettori troveranno qua anche la descrizione molto puntuale e divertente di un ambiente molto competitivo, quello dell'arte del periodo rinascimentale. Addirittura c'è anche un omicidio da parte dello stesso Cellini. Certo, perché esattamente viene definito da qualcuno il 1500 un West, l'West italiano, cioè le leggi o non venivano applicate o venivano applicate con troppo zelo, quindi si poteva sparire in una prigione e non essere più visti, insomma. Era tutto sommario e la gente era costretta a farci, proprio come nell'Oeste, giustizia da sola. Lui era poi un grandissimo tiratore, vero? Riusciva a centrare la testa di un piccione in cima a un palazzo. Cosa voglio dire? Che le invidie di questa categoria emergente, che sono gli artisti, che sono un po' liberi, hanno riconquistato la forza di sognare, si sono emancipati dalla categoria degli artigiani scalpellini, insomma, queste persone che col talento riescono a diventare amici di papi e di re, suscitano nei mediocri delle furiose gelosie. E lui a un certo punto, uno di questi, gli tira due pugnalate nella gola e l'ammazza. Questo è. Però, con la convinzione del Papa che in fondo i grandi artisti non vanno giudicati con il metro comune, perché sono dei regali di Dio. Infatti il Papa lo difende dal nipote dicendo che non era un artigiano ma un artifex. Ecco, certo. Quindi veramente il terreno è bollente, ecco, una realtà fulminante. In questo western, la parte del cattivo la fa un cardinale, Pierluigi Farnese. Sì. Che sarà il suo grande persecutore. Sì, il suo, per motivi di denaro, era un assetato di denaro sonante, e quindi ogni volta che c'era la possibilità faceva razzia. Si è visto in questi giorni che i soldi delle tasse di varie regioni andavano a finire in un conto svizzero. La storia si ripete. Ecco, l'opera che lei è più cara di Cellini, diamo un consiglio ai nostri lettori. Ma a parte c'è La ninfa di Fontainebleau, che è bellissima, un bellissimo nudo, fantastico, ci si innamora di quella donna lì, e naturalmente il Perseo, il bello del Perseo, cosa che non si dice tanto, è che dietro nella testa c'è l'autoritratto del Cellini, tra le ali dell'elmo del Perseo. Questa è anche una curiosità da andare a vedere lì in piazza. Il Perseo è una musica assoluta, no? Certo. Allora, buona visita ai nostri ascoltatori e buona domenica a Marco Messeri, autore di Vita allegra di un genio sventurato. Grazie. Grazie a voi tutti e agli ascoltatori. Ciao. Ciao, grazie mille. Coevo alla biografia di Cellini è il romanzo che vede protagonista Caterina de' Medici, che da Firenze partirà per diventare regina di Francia come moglie di Enrico II. Il libro di C.V. Gortner, appassionato del Rinascimento, ne presenta la vita, si intitola Le confessioni di Caterina de' Medici, pubblicato da Corbaccio, 466 pagine, 19,60 euro, ed è tradotto da Valeria Galassi. La vita di Caterina, scopriamo da questo libro, non sarà facile. Il marito la tradirà con la celebre Diana di Poitiers, la corte la respingerà, ma lei darà un contributo fondamentale alla prosecuzione della dinastia, assumendo anche la tutela del figlio Carlo IX, che era salito al trono minorenne dopo la morte prima del padre e poi del fratello maggiore. La fama di Caterina de' Medici è una fama sinistra, legata soprattutto all'organizzazione della notte degli Ugonotti, e infatti in questo libro troviamo cronache di grandi intrighi a corte e tra le corti, con avventure e una ricostruzione molto puntuale dell'epoca, che certamente fu una delle più travagliate della storia di Francia. Il paese che sorprenderà Caterina de' Medici quando vi approda per diventarne forse la regina. Ancora non è infatti consapevole del destino che l'aspetta. Sentiamo queste righe. Partimmo in viaggio da Marsiglia verso la valle della Loira, nel cuore della Francia, circondata da uomini ridenti nei loro attillati costumi di velluto e da sfrontate signore dal viso dipinto, insieme a centinaia di carri colmi di precarie cataste di mobili, utensili, tappeti e arazzi, tutto ciò di cui la corte avrebbe potuto necessitare, mi sentivo in preda alla soggezione. Niente di quello che avevo visto in Italia poteva essere paragonato alla stravaganza di questa corte, che avanzava serpeggiando come un nastro multicolore, sfrangiato ai bordi da una cacofonica moltitudine di servi e cani da caccia, con il re sempre al centro, attorniato dai suoi uomini. E la terra che attraversammo era straordinaria, talmente immensa che al suo confronto l'Italia sembrava una spina dorsale calcificata. Spaziai con lo sguardo lungo floride valli, sotto cieli luminosi, che si inarcavano sopra di noi come cupole dipinte di azzurro. Maestose foreste che si stendevano a perdita d'occhio, fino all'orizzonte, e fertili campi in mezzo ai quali si ergevano spaziose municipalità, e dove il bestiame pascolava in vasti prati, e i fiumi scendevano in curve sinuose sotto ponti di pietra. Restiamo nella corte di Francia, ma scivoliamo di qualche anno, anzi di qualche decennio, per raggiungere l'epoca del Re Sole, che ritroviamo protagonista, muto e silente, ma importante, del libro Il segreto del Re Sole di Gianfranco Micali. È pubblicato da Pendragon, 18 euro, 366 pagine. La scomparsa di un gran sacerdote del potere, come viene definito qui l'ex capo dei servizi segreti italiani, dà il là alla scoperta di un misterioso complotto che fa capo niente di meno appunto che al Re Sole e ai suoi oscuri rapporti col famoso sovrintendente Fouquet, rapporti che passano anche attraverso un quadro di Poussin. Del caso si dovrà occupare un uomo della squadra del defunto, Fangio Mazzarino, guarda caso, e qui alla sua terza avventura, sempre alle prese con i grandi artisti del passato. E dunque troviamo nel libro la cronaca di questa indagine, intervallata con ampi squarci sul periodo del Re Sole, sulla sua figura e soprattutto sull'accanimento che manifestò contro appunto il potentissimo sovrintendente Nicolas Fouquet, che il re riuscì a distruggere, a fare prigioniero, dopo avergli portato via naturalmente tutte le enormi ricchezze che questi aveva ammassato, fino a farlo rinchiudere nella tremenda fortezza di Pinerolo, forse sotto la misteriosa e famigerata maschera di ferro. Un classico della letteratura francese, ma qui veniamo ai nostri tempi, è Zazie nel métro di Raymond Queneau, uno dei più famosi titoli del grande scrittore francese, che torna adesso in edizione a fumetti, pubblicato da Rizzoli, e l'autore del graphic novel è Clément Houbrery, 104 pagine, 16 euro, tradotto da Viola Cagninelli. Zazie, dicevo, è uno dei personaggi più famosi del Novecento letterario francese. Il libro fu pubblicato nel 1959 e ne venne anche ricavato un altrettanto famoso film di Louis Malle. La vicenda di Zazie è particolarmente adatta alla riduzione grafica, infatti, come nota Stefano Bartezzaghi nella prefazione a questo libro, il nervosismo stizzito di Zazie è tutto nell'accostamento fumettistico degli istanti, nei raffinati giochi di colore tra i notturni violacei, i fondi rossi delle azioni e delle parole più violente. Forse occorreva davvero che qualcuno, conclude Bartezzaghi, facesse di Zazie un vero e proprio fumetto, perché la sperimentazione letteraria di Queneau rendesse di nuovo disponibile a tutti la sua acuminata allegria. E qui ne troviamo il risultato certamente molto efficace. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba, vediamo adesso alcuni titoli del genere giallo e noir. Cominciamo con un personaggio che si sta consolidando, essendo giunto alla terza avventura, un personaggio italiano, il commissario Enea Ziottia, creato dall'editore e scrittore Marco Polillo, che con Rizzoli pubblica Il Pontile sul Lago, 284 pagine, 19 euro. Siamo a Orta San Giulio, un bellissimo e placido paesino del Lago d'Orta, frequentato anche dall'autore, che confessa di essersi ispirato per l'ambientazione di questo delitto e di questo giallo a luoghi che egli ben conosce e frequenta anche con alcune case. Orta San Giulio è sconvolto a un certo punto dall'assassinio di un vecchio che aveva convocato il figlio, che appunto arriva di corsa e ne ritrova il cadavere. E sarà lui, il figlio, il notaio Vattuone, a rivolgersi a un amico, il commissario Zottia, che si immergerà in un clima tutt'altro che pacifico e trasparente, al quale la vittima si adattava perfettamente, come illustrano queste righe che ne presenta la personalità. Il professor Vattuone, per dirla chiaramente, non era uno stinco di santo. Gli piacevano le donne, e su questo non è che ci fosse poi da ridire. Ma le donne che gli piacevano erano soprattutto quelle degli altri. Piacere della conquista? La sua personalità da uomo di comando era rimasta tale anche dopo aver lasciato la scuola? Disprezzo per le donne? Ma sull'argomento sarebbe stato necessario interpellare il dottor Freud. Semplicemente un modo piacevole di passare il tempo? Comunque il punto era che quel suo atteggiamento disinvolto aveva creato non pochi attriti con alcuni dei suoi amici, o, come sarebbe stato più corretto definirli alla luce di quelle novità, presunti amici. Troviamo nel libro un'ottima resa di un piccolo ambiente cittadino dove girano pettegolezze segreti, un ambiente chiuso che il malinconico Zottia riuscirà a penetrare in pochi giorni. Ci spostiamo di qualche chilometro e dalle placide ma ambigue acque del lago di Orta affrontiamo la mala milanese, descritta in Milano Criminale di Paolo Roversi, pubblicato da Rizzoli, 430 pagine, 18,90 euro. qua ritroviamo la Milano che non c'è più, della malavita che non c'è più, quella degli anni 60 e 70, e anzi di quegli anni e di quella malavita il libro ci indica anche la colonna sonora. Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino, il Cerutti Gino. Il suo nome era Cerutti Gino, ma lo chiamavan Drago. Gli amici al bar del Giambellino dicevan che era un mago. Era un mago. Questa è una delle musiche indimenticabili di Gaber, appunto indicata nell'elenco della musica della Milano criminale. Vi troviamo i protagonisti della criminalità spesso spietata di quell'epoca, a partire dal regista della rapina di Via Osoppo. Vi troviamo quelli che davano loro la caccia, cioè Paluzziotti instancabile, o quelle cui quelle persone si accompagnavano. È una Milano che cambia, nella quale col 68 irrompe la violenza politica e la libertà sessuale, che, come ci dimostrano queste righe, provocheranno un trauma che non si potrà più risanare. Il movimento studentesco, riflette Santi. Quante volte hanno affrontato la questione lui e Carla? Lei solidale con i manifestanti che, sostiene, hanno tutte le ragioni di questo mondo. Lui incerto, preoccupato della brutta piega che stanno prendendo gli eventi. A Roma, ad esempio, i suoi colleghi di recente non se la sono passata tanto bene. Qualche settimana prima, a Valle Giulia, c'era stato un durissimo scontro tra la polizia e gli studenti. Tentavano di riconquistare la facoltà di architettura, che la madama presidiava, dopo averla sgomberata da una precedente occupazione. Bilancio della giornata. 150 poliziotti e una cinquantina di dimostranti feriti, 4 arresti, 200 denunce. Antonio storce la bocca. Il clima si è infuocato e quello che vede davanti a sé non promette niente di buono. Un'altra pagina sulla Milano sparita, questa di tutt'altra natura e anche di un altro periodo, è quella raccontata da Valentino De Carlo nel libro Quel prete de Ratanà. È pubblicato da Itinerari nella collana Milano Expo, 160 pagine, 10 euro. I milanesi più anziani ricorderanno la mitica figura di questo prete, Don Giuseppe Gervasini, che era stato parroco di Baggio, morto nel 1941, meglio noto appunto come il prete del Ratanà, da una località, Retenate, nella quale aveva esercitato il suo esercizio pastorale in una zona vicino all'aeroporto di Linate. In quella zona il prete aveva cominciato a farsi la fama di guaritore, una fama caratterizzata anche dalla franchezza dell'eloquio, quasi sempre in dialetto. E dopo qualche guaio con la curia, Don Gervasini approdò appunto a Baggio, dove consolidò la propria fama di guaritore, ancora oggi sospesa tra chi lo considera un mago e chi invece lo vorrebbe santo. Belle nel libro anche le foto della Milano scomparsa che accompagnano il testo. Un grande giallista, uno dei maestri del giallo, è Georges Simenon, che ritorna con L'assassino. È pubblicato da Delphi, 154 pagine, 16 euro, tradotto da Raffaella Fontana. Questo è un libro del 1935 nel quale non troviamo il commissario Maigret. Sappiamo fin dall'inizio chi è l'omicida, un medico olandese, e l'arte impareggiabile di Simenon si eserciterà appunto nel farci penetrare in questo personaggio apparentemente glaciale, indifferente e abitudinario, che all'inizio del romanzo appunto uccide la moglie e l'amante. La sua vita naturalmente avrà da questo una svolta importante ma anche imprevista, una svolta che viene descritta nel libro con una minuzia psicologica ben nota in Simenon, abilissimo nel tracciare il cerchio di solitudine e di ostilità che la comunità gli costruisce intorno e che per esempio viene descritta in queste righe. Del resto, che motivo aveva di passeggiare da solo per le vie di Amsterdam con la borsa sotto il braccio e di dormire a Ritz e poi l'indomani di riprendere il treno, il traghetto a Enkhuizen e di nuovo il treno a Stavoren? Una volta a Stavoren, avrebbe guardato in faccia il bigliettaio e non avrebbe saputo niente lo stesso. Intorno a lui c'era una città, un paese, un mondo. E in mezzo a tutto ciò c'era un solo posto per lui, una casa buia, un cerchio di luce rosata sopra la tavola da pranzo, una stufa in rame e maiolica, una domestica indifferente. Nel suo ambulatorio gli capitava di passare un'ora intera ad aspettare i malati, che diventavano ogni giorno più rari. Ma allora perché non lo arrestavano? Perché non dicevano ad alta voce quello che pensavano? Depositò la borsa a Ritz e riprese a camminare. Non aveva voglia di camminare, non aveva voglia di fare niente. Aveva creduto che la grande città gli avrebbe giovato e invece si sentiva un pesce fuor d'acqua. E a questo punto... Il confettino. Ai nostri lettori più piccoli segnalo Fortunatamente, scritto e illustrato da Rémy Cherlip, che è un autore americano e pubblicato da Orecchio Acerbo, 14 euro. Questo è un libro del 1964 di un noto autore per bambini che abitua il piccolo lettore agli incerti della vita, giocati qui con la concatenazione di eventi fortunati e sfortunati che naturalmente avranno una lietissima fine. Prima di lasciarci vi ricordo che prosegue l'iniziativa del Sole 24 Ore della Fondazione Bellonci, che sta pubblicando i capolavori del Premio Strega, le 50 opere più significative dell'importante premio letterario. Dopo Il Gattopardo, venerdì scorso è uscito in edicola, ma lo trovate per tutta la settimana, Caos Calmo di Sandro Veronesi al prezzo di 9,90 euro. E da lunedì al venerdì ho una pillola alle 10:05 dopo il GR che presenta questi capolavori. E con questo ringrazio Claudio Ricifari in redazione e Mauro De Angeli in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete riascoltare sempre questa e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento a domenica prossima e vi auguro buona domenica.